spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Sapete qual è il paese, cioè più che il paese, il paesino, la città, la regione dove si legge di più in Italia? Ne parleremo nel corso di Spunti di Vista, il tutto dalle 9. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Si dice sempre, anche un po' semplificando, che in Italia si legga poco, anzi che non si legga quasi per nulla, nel senso che il segmento dei lettori forti, così sono definiti dagli editori e dall'industria del settore, quelle persone che leggono almeno 12 libri l'anno, uno al mese, e rappresenta solo il 5% della popolazione. Ebbene, la realtà, andando a scavare dentro i dati, è un po' più differenziata, non che neghi questo dato, ma succede che il 50% delle letture totali italiane venga in realtà effettuata dalla popolazione tra gli 11 e i 19 anni. Addirittura la fascia d'età in cui si legge di più è quella tra gli 11 e i 14 anni. E perché questa propensione alla lettura cambia? Perché nel corso degli anni poi la perdiamo, questa abitudine, attività, frequentazione con se stessi? Non so come vogliamo definirla, ma ci siamo chiesti perché l'italiano, man mano che matura, se non vogliamo dire invecchia, lascia il libro sul comodino. E dalle 9 ne parleremo anche con voi per capire cosa potrebbe avvicinare a un libro, cosa soprattutto con voi in prima persona ha funzionato, cosa vi ha spinto ad aprire quel volume lì che se ne stava impolverato sul comodino. Ma prima di affrontare il tema della lettura parleremo di divorzi, separazioni e addirittura amore, questo sconosciuto che in genere non viene mai citato e nei contenziosi e nelle situazioni e nelle statistiche che illustrano la società che cambia e l'impennata di separazioni e divorzi in Italia, che in genere è parallela anche al crollo dei matrimoni religiosi e no. Eppure, quando la coppia scoppia, esiste negli altri stati una legislazione che permette di ottenere lo stato civile libero senza passare dalla fase di separazione. Passare da questa fase in Italia implica una serie di pubblicità, a cui non si pensa mai, dei propri fatti privati, proprio così. All'interno dei tribunali tutto quanto viene discusso in pubblico: presunti tradimenti, abitudini sessuali, rapporti con i figli, e tutto rimane lì in faldoni disordinati, denuncia il presidente degli avvocati matrimonialisti, che sarà tra l'altro nostro ospite, Gian Ettore Gassani, a fare letteralmente carne di porco, come si dice in gergo, di quello che invece era stata probabilmente una scelta importante, è una scelta piena di significati quando ci si era sposati. E perché oggi che ci si separa e si arriva lì, bisogna accettare che questa macelleria del tribunale praticamente percorra e dia in pasto a gente completamente estranea anche ai due interessati tutto ciò che di intimo c'è stato tra loro. Affronteremo anche questa problematica e quello che succede leggendo alcune pagine, alcune situazioni che si sono verificate nei tribunali italiani. Abbiamo detto anche in questo caso, naturalmente sono assolutamente gradite, benvenute le vostre telefonate, le vostre testimonianze. Diamo il numero di telefono che è l'800 24 00 24, oppure il numero di SMS, perché potete naturalmente partecipare anche con i vostri messaggi al 349 238 6666. Ora Visti da fuori. Mi ha anticipato la sigla di Carmelo Lauricella, il nostro regista, per aprire questa finestra sul mondo che solo i corrispondenti della stampa estera sanno riempire così bene. Pensate che in Italia, dei 360 giornalisti che sono lì per raccontare il nostro paese, vengono da 50 paesi e stanno a Roma, ma stanno anche a Milano e rappresentano 116 quotidiani, 30 periodici, 30 agenzie di stampa, 68 radio e 70 emittenti televisive, una specie di esercito civile che segue gli eventi dell'Italia con lo sguardo dei suoi spettatori, ascoltatori e lettori, però a quella distanza che l'italiano coinvolto naturalmente nelle vicende di casa sua non può mantenere. E oggi con noi c'è il decano della stampa estera, nonché il presidente della stampa estera in Italia, Tobias Spiller. Buongiorno e benvenuto, Tobias. Buongiorno. E tu, a parte il titolo, diciamo così, istituzionale che ricopri, sei presidente, sei veramente un appassionato del genere. Sei corrispondente in Italia per Frankfurter Allgemeine Zeitung, ma ritieni che abbia una funzione civile insostituibile la stampa estera, e qual è secondo te? Ma la stampa estera certamente non solo è l'osservatore dell'Italia, ma anche crea in qualche modo l'immagine dell'Italia. Tanti dicono che l'Italia è un paese molto particolare, ha un mito nel mondo, e certamente in stampa estera, che è stato fondato più di 100 anni fa, nel 1912, sono passati più di 5.000 corrispondenti, e quelli sono stati le persone che hanno portato il mito dell'Italia in tutto il mondo. Perché sono loro che lo raccontano sui mezzi di stampa, informazione, radio, TV, e ovviamente contribuiscono. Un altro elemento che contribuisce all'immagine dell'Italia, al di là di quello che ovviamente rimpalla sui telegiornali, sulle notizie, sulle testate estere, è la cultura. Allora io voglio farti una domanda, visto che qua oggi parleremo anche di lettura. L'italiano, diciamo medio scolarizzato, al di là di quelli che hanno proprio una passione per il genere, ha letto in generale Herman Hesse, ha letto Thomas Mann, io sto parlando di scuola e preparazione scolastica, Heinrich Boll, non lo so, conosciamo ovviamente Goethe, Dürrenmatt, Karl Marx, i film di Wim Wenders, questo è solo quello che mi viene in mente al momento. In Germania, nelle scuole, i tedeschi invece di italiano cosa imparano, cosa si nomina, cosa c'è nei vostri programmi che rimandi alla nostra cultura? Adesso è una domanda molto difficile, quanto sia nei programmi didattici delle scuole tedesche, che poi hanno 20 programmi didattici diversi per ogni regione. Certamente si sa di Dante, si sa di Boccaccio, ma dipende anche dall'insegnante. Poi fa qualcosa di letteratura moderna quando parla dell'Italia o quando parla di modernità. Comunque, era solo una curiosità, scusate, Tobias. Se da economista sono un pochino meno informato. Tobias, non era una domanda che ti richiedeva di riportarci assolutamente i programmi. Mi chiedevo, quando ti ritrovi con dei tedeschi che arrivano dalla Germania, eccetera, cosa conoscessero in generale, se si leggesse Camilleri, non lo so, piuttosto che Calvino, cioè cosa un tedesco in generale conosce della letteratura italiana, al di là del fatto che poi le scuole siano divise con programmi giustamente differenziati. Oggi c'è un tuo editoriale, ritorniamo all'economia, sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, in cui parli di Europa e fai una sorta di parallelo tra il sud dell'Europa e il sud dell'Italia. Cosa intendevi segnalare? Sì, certo, in questo devo permettete che faccio la premessa che, certo, come presidente di stampa estera parlo per interessi della stampa estera in generale, faccio parte della squadra che organizza gli eventi, ma certamente i 360 corrispondenti a Roma e quelli 90 a Milano sono anche come le Nazioni Unite, ognuno certamente ha la sua opinione. In questo, in quanto corrispondente, posso anche avere la mia, e da economista vedo certamente molto molto interesse cosa succede in Grecia, dove seguo l'economia, e anche cosa succede in Italia, tra nord e sud in Italia. perché si potrebbe anche dire così con linee un po' grossolane che il sud dell'Italia sta all'Italia un pochino come la Grecia sta all'Europa. I problemi della mancanza di sviluppo economico qualche volta sono gli stessi, perché c'è un clientelismo al sud dell'Italia che forse rallenta o blocca lo sviluppo, così c'è meno imprenditorialità almeno nei radici, mentre al nord c'erano i mezzadri che erano subito premiati se lavoravano bene, avevano una partecipazione all'utile. Al sud c'erano i lavoratori sui latifondi ai quali non interessava molto qual era il guadagno del loro latifondo. E certamente anche al sud si sentiva oppresso da occupanti di nazionalità esterne, spagnoli, francesi e altri, mentre al nord c'erano le città che erano in qualche modo auto-amministrate e creavano anche senso civico. Così ci sono delle diversità molto, molto grosse in Italia, e per un corrispondente è molto interessante perché l'Italia in quel senso è come un intero continente con grande diversità, ma dall'altro lato è anche un problema perché il sud ha tutti questi problemi da 100 anni e non è una grande speranza a dire che tutte le ricette finora non hanno portato molto lontano. Tu fai riferimento anche all'ultima promessa, diciamo così, di investimenti in infrastrutture fatta dal governo Renzi nel tuo editoriale? Pensi sia poco efficace? Questo mi sembra, questo è un dettaglio dell'attuale governo, ma guardiamo su quanti decine di miliardi sono stati mandati anche dalle casse dell'Europa verso il sud dell'Italia e quanto poco finora hanno portato. Allora bisogna anche guardare bene cosa fare per non lasciarci altri decine di miliardi senza effetto. E quindi tu parli oggi di questa economia a due velocità e denunci il ritardo nelle politiche di investimento del sud, diciamo più l'inefficacia che il ritardo, e fai questo escursus storico molto lungo, molto importante, molto dettagliato, che naturalmente prende in esame anche problematiche sociali, la mafia e dal punto di vista dell'occupazione ti porto su un terreno naturalmente a te familiare, visto che la produttività è legata a doppio filo anche ai posti di lavoro. Quando tu osservi la situazione oggi in Italia, c'è una differenza tra regole su licenziamenti e assunzioni anche in Germania, tra pubblico e privato? Cioè ci sono dei punti di contatto? C'è qualche lezione che l'Italia dovrebbe imparare in campo lavorativo e soprattutto per creare lavoro, visto che questo è l'appello, il refrain perenne che ormai da anni sugli articoli economici e non solo si sente ripetere? Sì, ma non mi va bene dire l'Italia dovrebbe imparare, ma tutti i paesi siamo sul mercato globale e per tutti è interessante paragonarsi con gli altri, e come anche la Germania si paragona con altri paesi. Quello che certamente può offrire come un spunto interessante la Germania è lo status dell'apprendistato e così l'inizio della carriera professionale in azienda dell'apprendistato. Una cosa non sempre così capito in Italia, quando in Germania 500.000 di ragazzi cominciano il lavoro professionale da apprendistato e lavorano da un lato in azienda, ma con un curriculum, devono un pochino imparare tutto, ma ogni settimana, un giorno, qualche volta pure due giorni, tutti vanno alla scuola professionale, ma non in una scuola professionale generica, è così che ogni falegname sta in una classe di solo falegnami, ogni meccanico sta in una classe di solo meccanici. Certamente in questo modo si può anche insegnare in questa classe le specialità del mestiere, e in questo va molto lontano, e la disoccupazione giovanile in Germania è 8%, in Italia è oltre 40%, e questo forse è una cosa anche interessante. Che la Germania può offrire, dunque, non la lezione da imparare. E un'ultima domanda, Tobias, perché chiaramente di Germania si è parlato tantissimo in questi mesi. Quando si punta il dito, e questa è una domanda un po' personale, ma nel corso di questi visti da fuori vogliamo capire proprio come vivete la vostra doppia identità, voi che in Italia ci state da qualche anno, quando si punta il dito contro la Merkel e le politiche d'austerità che la Germania ha così voluto, tracciato, e abbiamo visto tutti i riflettori puntati sugli accordi tra Grecia e Germania, hanno visto sempre in primo piano Angela Merkel. C'è stata una ondata quasi di simpatia generalizzata nella popolazione italiana, ce lo raccontava anche il corrispondente degli Olanes, verso la popolazione ellenica, il corrispondente greco. E tu lì cosa ti senti quando osservi da qua quello che accade a quei tavoli e vedi che gli italiani così sono insofferenti a certi diktat che arrivano e vengono addebitati alla tua, al tuo governo? E che reazione hai dal punto di vista personale, non giornalistico? Vuoi spiegare? Hai delle discussioni con i tuoi amici italiani? Ti arrabbi? Ti indigni? Tu che sei uno molto appassionale. In generale mi dispiace molto, perché in un'Europa che dovrebbe comprendersi sempre meglio, una delle premesse è non parlare per luoghi comuni. E tutti questi campi sono molto minati, perché mancano proprio i dati così di austerità in Europa. Al momento non so per quanto se ne potrebbe parlare, se il debito medio dell'Eurolandia è sempre in aumento ancora. Così, dove l'austerità? Ci sono varie cose. Si dice che dovete finalmente far spendere e consumare i tedeschi perché così facciano da traino all'Italia. Certo, il consumo per capita in Germania dal 2007, così nei ultimi 6 anni, è aumentato di 20%, inosservato dall'Italia. Così, la Germania ha staccato nella crescita, nello sviluppo del PIL, l'Italia di 16 punti percentuali così dal 2007. Allora qualcuno mi spieghi perché solo dal prossimo anno la Germania funga da traino per l'Italia, e finora non è successo. Quindi tu dici contraddizioni, molte mancanza semplicemente di fatti. Preferisci parlare per numeri, e questa è una delle lezioni che dai tu da economista. E ti porterò allora su un terreno ancora più minato, perché adesso, prima di salutarci, ci hanno fatto osservare gli ascoltatori che seguono questa rubrica Visti da Fuori, che molto spesso i corrispondenti della stampa estera, maschi e femmine che siano, sono sposati con italiani, e per questa ragione si fermano qui e continuano a fare il corrispondente dall'Italia. Tu che sei il presidente, so che è un dato che non avete preso in esame, immagino, ma è vero, è un'impressione nostra. Succede se qualcuno viene qua come ospite e cerca di conoscere il paese, certamente anche cerca di conoscere più persone possibili, e in questa situazione può anche succedere che si innamori e si sposi qua. Questo certamente è possibile, e in questa situazione poi quel corrispondente diventa meno osservatore, qualche volta anche coinvolto. Queste sono le contraddizioni della vita quotidiana. E su questo all'Italia serve avere dei corrispondenti che non sono solo pieni di luoghi comuni di chi viene per 2 giorni, ma gente che veramente conosce il paese. E questa è la grande ricchezza, il grande patrimonio della stampa estera. Alcuni si arrabbiano per gli articoli critici, ma in realtà il problema sorgerà il giorno che smetteranno di pagare stipendi ai giornalisti per osservare il nostro paese. Grazie a Tobias Spiller, che è rimasto con noi. Grazie mille. Grazie. Buona giornata, naturalmente. Tobias Spiller l'avete sentito, è il presidente della stampa estera e corrispondente in Italia per Frankfurter Allgemeine Zeitung. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Da quando ho cominciato non ho smesso più, sembra un po' la falsariga dei vostri messaggi al 349-238-6666. Ci state raccontando le vostre testimonianze, ci state raccontando le vostre esperienze più che testimonianze con la lettura. Continuo a leggere da quando ho cominciato a causa di una malattia, cioè ho cominciato tardi, ci segnala Diego, e avevo 22 anni. Da allora leggo un libro al mese come minimo. E spesso un libro italiano, uno in inglese, nello stesso mese su due reader differenti. Se si leggesse di più saremmo un paese migliore, questa è la convinzione di Diego. E c'è poi chi ci racconta di leggere in treno, e questo elemento della solitudine e del silenzio è uno degli ingredienti che probabilmente facilita questa abitudine. Sapete qual è il paese dove si legge di più? Paese intendiamo naturalmente centro abitato, il paese italiano, il piccolo centro. Ne parleremo dalle 9, perché sono gli italiani dagli 11 ai 19 anni maggiori divoratori di libri, e anche questo abbatte un po' uno di questi cliché che dipinge sempre questi ragazzi, ci diceva il nostro corrispondente tedesco Luoghi Comuni. Dipinge sempre questi ragazzi come sempre soltanto intenti, adatti, così fuori da quello che è il perimetro della legalità, altrimenti di loro in Italia non si parla. Noi alle 8:30 invece vogliamo aprire una pagina che è scomparsa dai giornali di oggi, forse perché ci si sta abituando. Io parlo in questo momento di femminicidio, parlo di violenza che avviene tra le mura di casa. Il 60% delle vittime in Italia è sposata, il 72% ha figli, sono soprattutto gli ex mariti o compagni che non accettano la separazione a colpire, e nel 60% dei casi è il partner a colpire, nel 25% dei casi è un ex. Le denunce come vanno? In Italia in realtà solo il 7% delle vittime ha il coraggio di denunciare. Intanto il dato solo del 2013 parla di una vittima ogni due giorni, il bilancio è stato di 179 donne uccise, il 68% in ambito familiare. Qualche giorno fa, ancora una volta, la cronaca ci ha portato a Lecce l'omicidio della ex da parte di un marito che non accettava la separazione, e immancabile la descrizione di questo tipo di azioni come raptus. Ma si tratta veramente di raptus? È una definizione corretta? Cosa indica questo termine, e soprattutto è applicabile a queste situazioni? Lo abbiamo chiesto al professor Claudio Mencacci, che saluto e ringrazio. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Che è direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale al Fate Bene Fratelli Oftalmico di Milano. E sullo sfondo di queste vicende, spesso separazioni, divorzi, e con noi anche il presidente di tutti gli avvocati che in Italia si occupano di questo, cioè degli avvocati matrimonialisti. Gianetto Regassani, benvenuto, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Ha scritto dell'associazione avvocati matrimonialisti. Dell'associazione avvocati matrimonialisti, l'acronimo corretto è AMI. Ha scritto I perplessi sposi e sta scrivendo un libro. Ci può anticipare il titolo? Vi dichiaro divorziati. Dichiaro le ultime novità normative del nostro paese, del nostro diritto di famiglia. E in che modo il diritto di famiglia, così come l'abbiamo oggi, è legato a doppio filo a queste vicende di violenza e grande sofferenza, non solo per le donne, anche per i minori nelle famiglie, secondo lei, avvocato? È legato a filo doppio, perché purtroppo quando la coppia scoppia e quando lei decide di lasciare lui, la tragedia è dietro l'angolo. Insomma, le dinamiche psichiatriche, psicologiche non sono il nostro cimento, ma le statistiche parlano chiaro. Adesso quello che lei ha letto prima è assolutamente aderente alla realtà, una situazione drammatica al nostro paese. Le donne spesso sono oggetto, anzi spesso ogni due giorni, di tragedie, ma stiamo parlando dei fatti estremi, ma parliamo anche di violenze tra virgolette meno gravi, si consumano tutti i giorni, insomma, una situazione molto grave. E proprio su questo vorremmo soffermarci. Non ci piace oggi far rimbalzare ancora una volta numeri impersonali dietro situazioni che tra l'altro spesso non sono nemmeno avvicinabili, ma quando si arriva, e questa è un po' la punta dell'iceberg, all'omicidio, alla donna che finisce in prima pagina, in realtà in quella famiglia si è già consumata una violenza e una sofferenza per mesi, a volte anni. Professor Mencacci, spesso si usa, dicevamo, il termine raptus, perché e perché lei non lo considera corretto? Corretto proprio perché è una lunghissima preparazione di sopraffazione, di violenza, di prevaricazione che poi può trovare una sua drammatica conclusione. E soprattutto dobbiamo ricordare una cosa, che tranne in pochissimi casi, non più del 3%, questi uomini sono perfettamente in grado non solo di intendere e di volere, ma non hanno nessuna patologia, non hanno nessuna patologia di tipo psichico, hanno una condizione che si chiama prepotenza, che si chiama sopraffazione, che si chiama idea di possesso, e questa situazione è quella che viene agita prima, durante gli anni della violenza, e non dimentichiamoci mai che non solo i figli osservano, ma hanno delle conseguenze, e le famiglie violente creeranno altre famiglie violente. Oggi abbiamo dei dati anche proprio di modificazione anche della stessa struttura genetica dei bambini che assistono alla violenza dei genitori. Della struttura genetica? Assolutamente. In che senso? Ci spieghi meglio. Abbiamo ormai delle prove che i bambini esposti alla violenza genitoriale o di un clima particolarmente violento hanno i telomeri, che sono la parte finale dei cromosomi, maggiormente, diciamo, consumata. Sono bambini più vecchi e a loro volta sono bambini che hanno delle strutture cerebrali come se fossero dei combattenti sul fronte. Quindi ci fa comprendere come questa, come dire, condizione di sofferenza non solo si trasmette direttamente, ma proseguirà probabilmente anche nelle generazioni a venire, proprio perché viene acquisito un modello di comportamento che è un modello che risolve qualunque conflittualità attraverso la sopraffazione e la violenza. Quindi, professore, adesso le segnalo un'osservazione di qualcuno che ci ha mandato un sms al 349-238-6666 e dice: insomma, basta con questo termine femminicidio. Uccidere un uomo, una donna, un bambino, un anziano è un omicidio generale che non deve ammettere attenuanti né locuzioni particolari. Cosa risponde? Perché possiamo anche concordare, sta di fatto che il rapporto tra donne e uomini è 9 donne vengono uccise rispetto a un uomo, quindi probabilmente dovremmo chiamarlo un omicidio di genere. Avvocato Gian Ettore Gassani, femminicidio sì o no? È un termine sviante o appropriato? Ma guardi, questo è stato un po' un tema che ha diviso i giuristi, soprattutto perché insomma, sono condivisibili entrambe le tesi. Certamente femminicidio serve a identificare un fenomeno sociale, secondo me, più che a fare un discorso di statistica se è più grave uccide una donna o un uomo. La stessa cosa vale quando vengono uccisi i bambini. Io non credo che quando la mamma uccide un bambino lì c'è il raptus. Purtroppo gli infanticidi sono un'altra faccia della medaglia di questa Italia martoriata, ma non solo dell'Italia, dove purtroppo devo dire che sono le mamme che uccidono. Quindi voglio dire, nelle famiglie italiane succede di tutto, di più, e quindi credo che si possa ancora mantenere il termine femminicidio per quanto riguarda il gioco di coppia, ma nella questione della sindrome di Medea, faremo un congresso nazionale a Roma il 9 e 10 ottobre, proprio per parlare della sindrome di Medea, delle madri che uccidono, anche lì spesso i colleghi, quando difendono le donne ancora col coltello insanguinato, dicono era un raptus. Allora bisogna capire che cosa scatta nella mente della gente quando ci si ammazza a coltellate o fucilate in casa. È un problema serio, anche un problema culturale, non soltanto, credo. Assolutamente. E non soltanto giuridico, chiaro. Posso intervenire perché è un tema che sta molto a cuore a noi come società di psichiatria, oltre che come... La condizione è questa, è che nella sindrome di di Medea abbiamo una percentuale molto piccola di donne che effettivamente hanno sviluppato delle psicosi postpartum, e purtroppo quell'accadimento si può anche manifestare, che è un numero molto ridotto. L'altra condizione è che c'è una lunghissima preparazione dei segnali che, nonostante le opere di sensibilizzazione e di prevenzione, non vengono riconosciuti. Moltissimi le riconosciamo fin dall'inizio gravidanza, per cui dovremmo veramente poter fare qualcosa, ed è un vero peccato. A proposito di segnali, professor Mencacci, lei ha scritto questo libro con Alessandra Bramante e Giovanni Filocamo, Donne e violenza domestica. Diamo voce al silenzio. Se una donna non intende, diciamo così, denunciare o richiedere un aiuto della famiglia o delle istituzioni, quali sarebbero i segnali che si possono cogliere di una famiglia a rischio? Beh, guardi, spesse volte sono una serie di dolori cronici, dolori pelvici, sintomi gastrointestinali, colon irritabili, dolori precordiali, e sono donne che si recano molto dai medici nelle strutture sanitarie. Non a caso questo libro è stato distribuito dall'Osservatorio Nazionale Salute della Donna in tutti gli ospedali Bollino Rosa, là dove c'è una specifica sensibilità alla donna, perché la donna si reca, manifesta soprattutto una sua sofferenza spesso di natura somatica, e lì è la preparazione del sanitario a intuire che quella frequentazione vuole dire anche qualcos'altro, perché le altre condizioni di ansia, depressione e altre sono già ulteriormente nella fase successiva, così come eventuali segni fisici che possono, come dire, manifestarsi, ma c'è molto prima tutti questi altri segni. E tra poco sentiremo anche le vostre esperienze. Ora andiamo a controllare il traffico e ritorniamo in diretta tra un istante. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E forse è riduttivo parlare di femminicidio, di violenza di genere, se pensate sia più appropriato il termine, solo in termini di numeri. Eppure sono 6 milioni e 788.000 le donne in Italia che hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, e spesso sono i partner attuali o ex che commettono le violenze più gravi. Si ritiene che se lo stesso tipo di violenze, di numeri tristissimi, fosse invece attribuibile a fenomeni di criminalità, donne aggredite per strada, uccise per strada, l'allarme sociale sarebbe maggiore. Invece, quando si tratta di moglie o ex moglie, il caso viene liquidato quasi come fisiologico, anche dai giornalisti. Sentiamo voi ora all'800 24 00 24. Marco, buongiorno, benvenuto, pronto? Pronto, buongiorno a voi, buongiorno ai suoi ospiti. Dica tutto. Allora, sicuramente io condanno tutte gli omicidi e la violenza. Beh, insomma, questo va da sé, non credo che nessuno le sostenga, sì, poi non perfetto. So. Però mi metto anche dalla parte di chi l'effettua, e un po' una giustificazione la posso trovare. Quale? In che senso? Prendiamo un separato che comunque deve, diciamo, qui do un po' la colpa anche alla giustizia italiana, che è molto a favore della donna, quindi questo uomo che è separato deve dare gli alimenti, che vengono fatti spesso in base ad un calcolo matematico e non alle vere necessità dell'uomo. Questo uomo che si ritrova da solo, se non ha una famiglia alle spalle che deve vivere distenti, perché comunque deve pagare una. Sì, sì, esiste questo fenomeno della povertà, il doppio affitto, sì, la casa di famiglia, sì. Tante cose che portano comunque anche i vari litigi, perché a volte le donne, cioè non parliamo di donne, parliamo di persone, si pongono anche in maniera sbagliata, quindi quella goccia che fa traboccare il vaso ci può stare, non è giustificabile, ci mancherebbe. Può stare. Però quel momento. Come mai lei pensa che la donna sia meno arrabbiata? Come mai non può stare mai dall'altra parte? A volte anche la donna. No. Certo, no. Anche la donna subisce ingiustizie, violenze, sofferenze. Come mai è sempre. Ha veramente ragione. Però io infatti ho detto do la giustificazione mettendomi dalla parte. No, lei dice, se, forse intendeva, scusi se mi permetto di riformularla, no, c'è uno scenario, c'è un humus di esasperazione. Spero, Marco, che lei non parli veramente di giustificazione, perché altrimenti... No, esasperazione, ha ragione lei. Saremo una deriva proprio pericolosa. Grazie a Marco. Gianettore Gassani. Non c'è alcuna giustificazione che te, mancherebbe altro, ma non c'è proprio niente da dire. E che ci sia un diritto di famiglia che indubbiamente quando la coppia scoppia tutela figli e mogli, su questo non c'è dubbio, lo dicono anche gli addetti ai lavori, la giurisprudenza sta cercando di mettere mano, ma stiamo parlando di altro, non è giustificabile neanche una cattiva parola a mio parere, figuriamoci il resto, insomma, è gravissimo quando si pone la questione in questi termini, ma credo che l'ascoltatore abbia poi chiarito la sua posizione. Esasperazione che porterebbe, l'ha sentito anche lei, sono molto interessata al parere anche del neurologo, ha sentito questo atteggiamento? Beh, è quello che supporta ancora certe azioni e che fa sì che ci sia di fondo ancora un sotterraneo giustificazionismo a più livelli, a livelli sia della comunicazione che nell'opinione pubblica. In fondo quello che non viene riconosciuto è il diritto delle persone di scegliere con chi e quanto stare, ma soprattutto di poter scegliere la propria libertà e il proprio futuro. Questo non viene accettato se a operarlo è una donna. Partendo da questo e anche da tutte le altre considerazioni che il signore ha fatto dell'impoverimento, che è vero che avviene, ma è l'impoverimento della famiglia che di fatto si separa, ma questo non deve essere mai utilizzato. I figli purtroppo sono trascinati in mezzo delle guerre nelle quali i poveri proprio non c'entrano nulla, tant'è che il massimo delle violenze avviene, e questo ce lo confermerà il presidente dell'associazione, quando c'è l'attribuzione e la gestione dei figli, che vengono utilizzati assolutamente come pretesto, ma la realtà è la sopraffazione, la prepotenza. Stefano, buongiorno, tocca a lei, pronto? Buongiorno. Dica. Saluto a tutti voi. Niente, ecco, io volevo dire, non ci dimentichiamo che noi viviamo in una società estremamente sessista, però le donne hanno un ruolo fondamentale in questa società, insomma, soprattutto nel nostro centro-sud, l'educazione verso il machismo, cioè la madre vuole che il figlio sia forte, che si faccia rispettare dalla sua donna. È un fatto assodato, cioè non ci dimentichiamo che fino a poche decine di anni fa l'omicidio per onore era punito con praticamente quasi con niente come pena, anzi con un applauso dal punto di vista sociale, quasi, certo, no? Pacca sulla spalla e via. È pieno di film, il ruolo della madre è molto importante, questo che dice lei, cioè la madre dà l'input al figlio maschio dicendo, spingendolo o non facendolo riflettere forse sulle responsabilità che un giorno da uomo potrebbe avere. È fondamentale, e quindi se la madre continua nella società a ricoprire questo ruolo di istigatrice alla violenza verso praticamente se stessa, perché verso una donna che poi a sua volta diventerà madre, moglie, via, cioè questo è un circolo vizioso che sta vita, cioè proprio un fatto culturale. Grazie. Beh, Stefano, per questa importantissima segnalazione. Gianettore Gassani, dal suo osservatorio di presidente dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti, quanto pesa il ruolo della madre nella formazione, proprio nelle convinzioni dell'uomo che agisce in un certo modo? Ma il radioascoltatore ha messo in mezzo un discorso che è stato oggetto di vari convegni da parte nostra. Oggi la madre ha un ruolo preponderante nella famiglia, decisivo. C'è un matriarcato ormai nel nostro paese in cui il padre è una figura assolutamente defilata, vuoi per la nuova cultura, vuoi anche per la giurisprudenza, e la madre spesso o ti crea un grande uomo o ti crea una belva. Ci sono uomini che sono legati a filo doppio con le madri, vengono ai nostri studi per separarsi, ma vengono con la mamma. È la mamma che parla, la mamma veramente che paga la parcella, la mamma che stabilisce una strategia. Ma è oggi vengono i mammoni con la madre. Sono la tragedia nazionale, la vera tragedia nazionale sono i mammoni, perché le donne hanno sottratto alla figura paterna, questo credo che non ci siano dubbi, la possibilità di svezzare i figli anche al maschile, per cui c'è molte donne giovani vengono da noi a lamentarsi giustamente che i mariti stanno sempre al telefono con la mamma, che parlano di problemi familiari con la mamma, scelgono le vacanze o le tende di casa con la mamma. Quindi il problema è anche questo, cioè c'è tutto ormai, c'è una confusione totale di ruoli, che in qualche modo, come giustamente diceva il radioascoltatore, sono proprio alcune donne che non riescono a educare, a formare i propri figli, e i figli diventeranno i carnefici di altre donne. Credo che dal punto di vista culturale e sociale dobbiamo rivedere tante cose, perché per esempio la giurisprudenza condanna quegli uomini o quelle donne che consentono alle proprie mamme di ingerire nel menage familiare, per cui quante suocere sono poi la ragione, la causa, soprattutto le mamme degli uomini, la ragione del tracollo di un matrimonio, perché c'è questa invadenza. Quindi da una parte c'è la donna vittima, dall'altra parte c'è la donna carnefice, perché dobbiamo avere anche il coraggio di ammettere queste dinamiche. Perché dal 75 certo. In poi la figura paterna è stata fatta fuori, proprio socialmente, è una figura assolutamente eventuale, un bancomat. Poi ne parleremo tra poco, perché diamo la linea tra poco al GR, quindi dobbiamo approfondire in che modo l'esasperazione, tutti i segnali di disagio, di disfunzionalità che lei segnala e che osserva ovviamente nelle famiglie, soprattutto nelle famiglie che stanno per separarsi e per dividersi, possono giustificare un atto violento o di rabbia. Perché questo tipo di situazioni può essere alla base e viene vissuto spesso come un elemento inevitabile dell'atto violento estremo? Perché non c'è questa condanna? Lo chiederemo tra pochissimo a Gian Ettore Gassani e arriveremo anche alle conclusioni su quello che è un istituto, quello della separazione, che ha delle particolarità tutte italiane. Voglio sentire anche il professor Mencacci. Dal punto di vista neurologico, questa situazione di rabbia che si alimenta, che si, come dire, coltiva, che si protrae, è alla base di questi atti violenti, di questi uomini che poi arrivano a questi gesti? Sicuramente c'è una grande crescita di risentimento e di rabbia, ma io volevo aggiungere una cosa, che noi viviamo in una realtà in cui si è perso la cultura del litigio. Le persone hanno smesso di litigare e sono passate alla distruzione. Uno vuole annullare l'altro e mai come in questo momento si è vista una, vuol dire, rivalsa dell'uomo nei confronti della donna. E sappiamo anche d'altra parte che ci vi sono separazioni nelle quali invece con maniere diverse, per fortuna non così rispettose, anche le donne vogliono annullare, distruggere il proprio ex partner. Quindi la logica è fondamentalmente l'aver perso la cultura del litigio. Le persone non sanno più litigare, le persone vogliono solamente annullarsi, distruggere, vogliono la vendetta, che è una cosa ben diversa. Questo è un altro mondo sul quale, come dire, anche noi professionisti, e mi riferisco anche ai professioni delle separazioni e dei divorzi, avete delle responsabilità. E tra poco ci arriveremo, professore. Devo però interromperla adesso perché incalza il tempo, sta per arrivare il notiziario, dunque le news e poi insieme di nuovo spunti di vista per le conclusioni. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ritorniamo insieme per concludere questo percorso che ci ha portato a parlare ancora una volta di violenza sulle donne, ancora una volta, perché vorremmo veramente segnalare dei progressi, non ce ne sono nel 2015, nonostante la possibilità e di denuncia e la possibilità di leggi che in qualche modo permettono il divorzio, che sicuramente non è più un tabù, e questo lo segnalano le cifre e le separazioni che sono in costante crescita. Eppure, nonostante questa differenza rispetto a qualche anno fa, non si registra una diminuzione delle violenze sulla donna, soprattutto quando decide di lasciare l'uomo. Sono state segnalate nel corso della trasmissione degli importanti elementi anche culturali che partono dalla famiglia, dalla madre, a come la madre madre educa il figlio maschio. Queste sono le responsabilità che le donne hanno su come un giorno staranno altre donne, che saranno le compagne, le fidanzate, le mogli, le madri dei figli dei propri figli. E bisogna educare questi ragazzi, questi figli, ad accettare la libertà di scelta, perché questa, ci segnalava il professor Mencacci, ancora non è digerita ed accettata, che può far male. Una libertà di scelta dell'altra persona, del partner, della compagna, che può certo creare stati di, come dire, disagio, anche di lacrime, ma non può mai giustificare rabbia e violenza. Sentiamo anche le vostre opinioni all'800 24 00 24. Pronto, Chiara, buongiorno, tocca a lei. Sì, buongiorno. Sì, io confermo, anch'io credo che in Italia ci sia decisamente un problema culturale, nel senso che c'è ancora un maschilismo dilagante, a mio avviso, e il pensiero che comunque la donna in un certo qual modo debba essere o possa essere considerata inferiore all'uomo, e che la violenza dell'uomo verso la donna, giustificata dalla rabbia, dal retaggio culturale, dalla provenienza anche dell'uomo, possa in un qualche modo appunto giustificare la violenza che l'uomo può agire sulla donna. Perché ad esempio io appunto parlo di un caso che mi tocca da vicino, e io sono rimasta molto colpita dal vedere e dal sentire i miei fratelli, che pure sono nati e cresciuti in Italia, cioè in Italia, mi perdoni, a Milano, giustificare il comportamento dell'ex compagno di mia sorella, che vabbè, proviene dal sud, e dicendo vabbè, cosa vuoi, purtroppo lui ha questa mentalità e fa fatica ad accettare quindi che tua sorella lo possa lasciare. Sì, sì, uomini che giustificano altri uomini in questa situazione, e quindi le persecuzioni e le violenze, che a volte sono anche psicologiche, non solo fisiche. Non vedo in questo una grandissima differenza tra nord e sud. Chiara, grazie della segnalazione, anche dello stupore lo scoprire che i fratelli. Abbiamo molti infatti messaggi di solidarietà verso gli uomini al 349-238-6666. Anche le donne sanno essere violente, guardi, perché il giovane sfregiato con l'acido, il suo caso non ha sollevato la stessa indignazione di quando la vittima è stata una giovane e bella professionista. Sembrano due casi di uguale arretratezza, segnala Riccardo, ed è vero che siano due casi di uguale arretratezza ed estrema violenza. Non credo che ci sia quella situazione di grande partecipazione quando le donne vengono non solo picchiate, uccise. A me è successo recentemente in un parcheggio di un ristorante con 300 persone di intervenire mentre un uomo stava picchiando, picchiando la sua giovane compagna di 25 anni, devo dire che non c'è stata nessuna partecipazione dei presenti, che anzi chiedevano perché non si facessero gli affari propri, cioè tutti erano molto sconvolti di questa interferenza in una dinamica di coppia. Perché non ci si fanno gli affari propri, perché i vicini si intromettono, cioè siamo ancora a questo livello, non solo di tolleranza, ma proprio a volte anche di complicità, fino a che arriva il giorno della tragedia, quella irreparabile, non si torna indietro, e allora lì ci si comincia a fare delle domande, quando però purtroppo è troppo tardi. Professor Mencacci, prima di salutarci, cosa funzionerebbe? Qui abbiamo segnalato molti elementi che non funzionano, e dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista delle diciamo così persecuzioni, la legislazione ha introdotto anche legislazione anti-stalking, eppure le violenze e gli omicidi sulle donne non sono diminuiti. Cosa secondo lei servirebbe? Beh, ci sono due cose. Da un lato aumentare la fiducia, qualche segnale ce l'abbiamo, nelle forze dell'ordine e anche nella capacità di fare denuncia. Dobbiamo aiutare molte donne apposta a uscire dal retaggio, di pensare che addirittura le violenze che subiscono abbiano delle giustificazioni, e questo bisogna veramente sensibilizzarle, e soprattutto poi costruire dei piani di sicurezza. Nessuna fa un'interruzione da un giorno con l'altro, anzi molte si spaventano, quindi fare dei piani di uscita, dei piani di sicurezza che vanno preparati nel tempo. E poi fortunatamente adesso stanno crescendo però comunque i livelli di segnalazione, come delle nuove app che utilizzano la centrale del numero unico di emergenza per chiamate silenziose. Il 112 inizia a funzionare, c'è una REU soprattutto nella regione Lombardia, ci sarà in tutta Italia, quantomeno interrompiamo delle situazioni che sono in atto chiamando sia forze dell'ordine che ambulanze, insomma intervenire subito e poi anche provvedere all'uscita di casa, all'uscita di casa in sicurezza, perché altrimenti poi dopo 3 giorni si ritorna appunto a capo. Grazie al professor Mencacci. Avvocato Gian Ettore Gassani, ci ha colpito molto leggere all'interno del suo libro I perplessi sposi, che è un po' uno dei pochi libri sul diritto di famiglia che riesce a essere posto in maniera, a utilizzare un linguaggio narrativo, accessibile a tutti, sì, non tecnico, che va a indagare in quelle che sono le sofferenze e dei mariti e delle mogli e degli ex mariti e delle ex mogli e parla di questa macelleria che viene fatta degli elementi, dei fattori, delle situazioni più intime nei tribunali italiani. Lei parla di questa esposizione pubblica spesso, nonostante non si litighi certo per un parafanghi danneggiato o un pezzo di terra, si parla della cosa più importante, dell'amore, e invece c'è questo meccanismo della catena di montaggio dei professionisti di divorzi, di separazioni che chiaramente devono intervenire. Ma secondo lei cosa si potrebbe fare perché si possa arrivare a delle separazioni, a delle esigenze anche di tutela dei figli, di quelli che sono i mezzi di sostentamento delle future famiglie che si verranno a creare, senza questi passaggi piuttosto penosi che lei denuncia e lei racconta? Ma guardi, è vero, scrivere un libro di diritto di famiglia in forma narrativa è la cosa più difficile che possa esistere, però credo che sia anche un diritto della gente capire l'ABC dei propri diritti all'interno delle relazioni familiari. Detto questo, diceva bene il professore Mencacci, bisogna creare secondo me una scuola di litigio, imparare a litigare, perché questo avviene poi soprattutto quando la famiglia si disgrega, e bisogna imparare a litigare senza uccidersi, e spesso uno dei teatri della vendetta è il tribunale, perché ci si può ammazzare fisicamente ma ci si può disintegrare anche in un'aula di giustizia, cioè stendendo tutti i panni sporchi, chiedendo perizie contro perizie, producendo documenti intimi e personali. Io credo che in un paese come il nostro, in cui esiste ancora l'addebito, dove esiste ancora una certificazione di responsabilità, dove gli avvocati sono armati fino ai denti per farla pagare all'altro, non è colpa nostra, è la legge stessa che ci arma fino ai denti. Siamo dei Rambo in tribunale, noi avvocati, possiamo fare qualsiasi cosa. Lei contesta, una volta si chiamava colpa, adesso c'è un nuovo istituto. Si chiama addebito, ma è praticamente addebito. La stessa cosa. Ma che cos'è? Ce lo spieghi, perché spesso le persone finché non affrontano una separazione, un divorzio, sono completamente ignare di questo, sì, tipo di tecnicismi. È una domanda accessoria rispetto alla domanda principale, che è quella della separazione, ed è una certificazione di responsabilità che produce due effetti. Primo è quello di perdere l'assegno se si subisce l'addebito, ma addirittura di subire un'azione di risarcimento danni. Ma terza cosa, è più un fatto sociale, perché durante l'ora del tè la moglie potrà dire: ecco, io ho vinto la causa, oppure il marito, gli amici, ho vinto la causa, è stata lei la colpa, è stata lei la colpevole. Voglio dire, in tutto questo è lo stesso sistema che determina poi il conflitto, perché negli altri paesi l'addebito non esiste, ci si lascia, punto e basta. Noi siamo capaci di produrre in giudizio le cose più intime e personali, anche un'infedeltà, per l'amor di Dio, fatto dolorosissimo, ma a volte sono infedeltà determinate da altre situazioni, sono fedeltà che sono la conseguenza di una grave crisi già in atto, eppure si arriva in giudizio e si producono lettere d'amore, situazioni, fotografie, ci si macella in tutti i modi. Devo SMS. Dire che da questo punto di vista uomini e donne sono uguali sul piano della cattiveria, poi il gesto estremo, siamo d'accordo, il femminicidio, ma la violenza di farla pagare, di distruggere l'altro, non esiste tra uomini e donne, esiste anche tra coppie dello stesso sesso, attenzione. Io ho dovuto gestire anche situazioni di conviventi che avevano fatto dei patti come dello stesso sesso, un'altra tragedia, quindi non è solo un problema di uomo o donna. Noi non siamo in grado di litigare né tra amici, né tra persone dello stesso sesso, né tra coppie eterosessuali. credo che sia un problema assolutamente culturale, il sentimento della prevaricazione che giustifica in casi estremi quello che veniva definito raptus e in altri casi la distruzione dell'altro coniuge, che tra l'altro provoca infiniti dolori e danni ai bambini o anche ai figli più grandi, perché non solo i bambini ci sono nelle famiglie che si separano, perché ormai ci si separa, lo dicono le statistiche, anche dopo i 60 anni. Grazie per aver condiviso con noi questa sua esperienza, Gianetto Regassani. Grazie a voi. E Gianetto Regassani è il presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Ha scritto I perplessi sposi, questo è un'indagine sui matrimoni che finiscono in tribunale, e sta scrivendo su separazione e divorzi Vi dichiaro divorziati. Grazie anche a Claudio Mencacci, che è il direttore di Dipartimento Neuroscienze Salute Mentale al Fate Bene Fratelli Oftalmico di Milano, e un altro grandissimo esperto della violenza interpersonale, delle sue ricadute a breve e a lunga distanza sulla salute di chi è coinvolto, di prevaricatore, di vittima e dei bambini che osservano un'altra volta. Chiudiamo questa pagina, 18 minuti trascorsi dopo le 9. Abbiamo lavorato ieri a un altro tema in redazione con Barbara Bianchi, che ringrazio, Silvi Boccaletti e Massimiliano Lollis, ringrazio tantissimo anche loro per i loro contributi sulla lettura. Voglio anche salutare in questo momento tutti quelli che contribuiscono a questo programma, inclusi al centralino Miriam Rosa, che riceveranno le vostre telefonate fino alle 9. Dovete cambiare tema, però 800 24 00 24 rimane il numero. Il tema ora è la lettura, e in particolare, stando ai numeri e alle statistiche, si legge tantissimo fino a 19 anni in Italia, e poi boom, chissà perché li lasciamo sugli scaffali quei libri. Perché? Qual è la ragione per cui i più grandi, i più forti lettori italiani siano i giovanissimi e invece stentiamo noi adulti a tenere il ritmo? Lo chiediamo a Romano Montroni. Professor Montroni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E lui insegna una cosa bellissima, cioè in un master in editoria cartacea e multimediale e all'Università di Bologna dal 2001. Tra l'altro lei, Montroni, è docente anche della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta, sì, Mauri. Esatto. Cosa insegnate ai librai? Beh, intanto la prima cosa che insegnano i librai è riuscire a far bene il mestiere. Però mi permetta, perché ho sentito adesso la trasmissione precedente legata alla violenza delle donne, ma com'è che non si parla mai che tutto questo tipo di violenza può essere legata a un'ignoranza che nel nostro paese dilaga ed è frutto anche della mancanza di lettura? Ha ragione. Adesso il mestiere è un'altra storia. No, ha ragione. Sa perché? Perché tante donne che ci hanno scritto testimoniando il loro cambio di vita e cioè, certo, hanno detto che hanno aperto gli occhi leggendo un libro. Esatto. Beh, esatto. Ma il mondo dei libri, è per quello che dico, il mestiere di libraio è un grande mestiere che deve rapportarsi con quelli che curiosamente entrano in libreria. Però vorrei ricordare che il nostro è un paese terz'ultimo in Europa come indice di lettura. Non è un caso che certi tipi di violenza, di comportamento, di modo di essere si manifestino principalmente in paesi che sono, da un certo punto di vista, culturalmente arretrati, perché non si riesce a capire l'atteggiamento giusto da tenere di fronte a certi fatti. E ha detto bene quella lettrice che ha testimoniato che in un libro può trovare tutta una serie di cose. Guarda, io sto leggendo questo piccolo libro di Vonnegut, questo grande autore americano, che è un'antologia di lezioni che lui fa delle lauree in varie università americane. Ci dica il titolo. Come essere felici. È stupendo, pubblicato da Minimum Fast. Stupendo, perché lui sta parlando a dei giovani che si sono laureati e ne dice di tutti i colori, perché in realtà laurearsi è un fatto positivo, ma è il modo di essere dopo che conta. Quindi l'acquisizione di un parametro culturale ti può far ragionare in maniera diversa. Noi ai librai cosa insegniamo? Insegniamo ad essere nei luoghi dove lavorano, che sono le librerie, di essere il più possibile ospitali per chi frequenta quei luoghi, per dare valore a quella che è la creatività dei libri. Il paese Italia è uno dei paesi a più alta produzione nel mondo. Sì, siamo il terzo, a più alta pubblicazione. Sì, pubblicazione, esatto. E siamo invece il terzo ultimo paese d'Europa come indice di lettore. Noi leggiamo, la media è 40,4% del popolo italiano che legge almeno un libro l'anno, contro paesi che sono il doppio dei nostri: Germania, Inghilterra, Francia. Allora, non voglio dire che la violenza in questi luoghi sia diversa dalla nostra, ma certamente la proporzione è spaventosa, perché lo si vede girando per strada, andando in giro, dialogando, la bassezza culturale che si verifica, perché se uno non legge, uno dei tanti parametri dell'acculturamento della persona è anche il leggere, ma se uno non legge non scopre mai paesi diversi. Allora, è chiaro, anche il viaggio, lei ci segnala cosa possono dare i libri, no? Ci si chiedeva, certo, in questi giorni. Uno che legge Chetwin impara Tabucchi, se uno va in India non legge Notturno Indiano, oppure insomma, i libri dicono tutto. Su qualsiasi tema. Senta, un'altra cosa, Montroni, abbiamo capito che chiaramente lei è ancora innamorato, appassionato di un lavoro che ovvio, ovviamente fa innamorare, però ci spieghi un attimo questa divisione dal punto di vista dell'età che abbiamo notato, abbiamo registrato dalle statistiche semplicemente, riguardo al fatto che finché si hanno 19 anni si legge. Più sotto, no, bisogna andare più bassi. Ai 14. Sì, perché la cosa bella è che tutto dipende. Dunque, le scuole italiane, intanto partiamo dal presupposto che, salvo rari casi di spontaneità, non ci sono le biblioteche di classe di scuola. Punto. Sì, è vero. Tranne rari casi, lei dice, rari di sensibilità del singolo insegnante o volontariato che l'allestisce. Allora, le scuole dove trovano maggiore disponibilità, maggiore entusiasmo sono soprattutto le scuole elementari. Le elementari, gli asili elementari, ci sono degli insegnanti dove il libro lo usano proprio come strumento didattico, pur non avendolo nella didattica di insegnamento. Quando andiamo nelle medie è spaventoso, per non parlare poi dei licei. Quindi la progressione si allontana, perché allora famiglie in genere sono poche quelle che leggono e hanno biblioteche in casa. Ci deve essere un'integrazione tra interesse al libro nella scuola e nella famiglia, tant'è vero che nei paesi a più alta lettura, se si va a vedere, io lavoro al Centro del Libro per la Lettura d'Italia, che è un organo del Ministero di Franceschini, e ci occupiamo di queste cose. Allora, sta per uscire un libro, uscirà un libro in settembre, da un'indagine fatta nei paesi europei, perché là dove c'è la percentuale alta di lettori, c'è un organo dello Stato che, come nasce un bambino, prendono la cura di questo bambino e la famiglia e lo seguono fino all'età delle scuole dell'obbligo, perché non si può avere, ad esempio, una scuola che insegna a leggere e una famiglia che è totalmente avulsa da questo problema. Cioè, l'integrazione di questi due fenomeni porta a un'emancipazione e a far suscitare un interesse attraverso questo strumento che si chiama libro. Grazie, grazie Montroni, chiameremo in causa ancora, ma sentiamo anche cosa hanno da dire i nostri ospiti, visto che lei ha parlato dell'estero. Noi ci andiamo per la verità a Parigi. Buongiorno dottoressa Laura Lacorte. Buongiorno. Lavora al Lice e l'abbiamo incrociata, la dottoressa Lacorte, proprio cercando cosa si vendesse e come andasse il mercato dei libri altrove. Quindi abbiamo visto delle ricerche fatte proprio dal Lice quando lei si trovava in Cina, per cui ha questo osservatorio internazionale incredibile la dottoressa Lacorte, e ci spiega cosa fanno fuori, cosa potremmo mutuare, cosa potremmo importare come buone pratiche in questo ambito. Allora, guardi, questa scoperta che avete rintracciato su internet di questa indagine che fu fatta un po' di anni fa, io in realtà ero a Roma, però ovviamente avendo uffici di osservazione, punti di osservazione in tutto il mondo, andiamo ad esplorare nuove situazioni, nuove realtà, nuove possibilità. In quell'occasione appunto si parlava molto di Cina, credo che fossimo tra il 2008 e il 2009, E quindi abbiamo realizzato una, tramite appunto i nostri uffici in Cina, un'indagine sulla richiesta di italiano, richiesta di lettura italiana, richiesta di conoscenza italiana da parte delle varie strutture cinesi. E fu una scoperta vedere che in molte facoltà, in molte scuole anche minori, vi sono dei corsi di lingua italiana, c'è molta richiesta di italiano e vi è molta attenzione per quello che è la lettura in genere. Questa fu un'altra scoperta, e cioè che appunto i cinesi, soprattutto da piccoli, leggono. Scoprimmo che una delle proprio strade principali di formazione, ovviamente in Cina vi è anche un forte sistema di controllo, però loro vogliono che i loro ragazzi leggano e si formano. Tra altre cose lo vediamo anche in quello che è la musica, no? Adesso quando sì non possiamo paragonare, certo, di tutto il mondo abbiamo pianisti e cantanti cinesi, chiaro. Non possiamo paragonare il sistema cinese, chiaro, ai sistemi occidentali, e poi anche la demografia, insomma, propende per la loro però parte. Loro hanno corsi nelle scuole, hanno corsi, cioè lì dove noi per esempio nel nostro sistema scolastico abbiamo eliminato i corsi di musica, purtroppo, questo è un esempio. Sì, che i bambini fanno musica fin da piccoli. Fanno musica fin da piccoli, mentre noi trascuriamo anche quell'aspetto. Parlando del libro come veicolo e di cultura e di formazione, come lei ha detto, quali altre differenze nota anche rispetto agli interventi, per esempio, di un governo francese? Ma guardi, intanto sicuramente è vero quello ovviamente che diceva l'esperto di prima, che in Italia vi è questo strano fenomeno che andrebbe proprio studiato sul piano, sarebbe una buona domanda per un sociologo, perché in Italia si abbandona a un certo punto il libro, mentre quando si viaggia all'estero si vedono i ragazzi con i libri in mano anche nelle metropolitane. In qualsiasi metropolitana, a New York piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Londra, i ragazzi hanno i libri in mano. I nostri invece hanno spesso questi telefonini, questi apparecchi. Quindi non so, andrebbe proprio approfondito il perché. Forse è una errata interpretazione di quello che è innovazione, nel senso che forse da noi si interpreta l'innovazione come un po' un imbastardimento dei comportamenti, mentre all'estero vi è ancora attenzione assolutamente per la cultura. E il governo francese? In Francia in particolare, poi voglio dire, lo vedete, lo leggete, vi è molta attenzione per quella che è la specificità culturale francese, loro la chiamano, in qualsiasi accordo internazionale loro mettono avanti la loro specificità culturale, nel senso che tengono molto a proteggere senza proprio nessuna remora quelli che sono che la loro proprio cultura francese. Forse dovremmo prendere ad esempio e fare di questo una difesa in qualche modo della specificità anche culturale europea, perché è molto chiaro che lì dove tu comunichi cultura, dietro la tua cultura poi cammina anche l'economia. Grazie. Anche i nostri prodotti. Grazie alla professoressa La Corte, chiaro che c'è un discorso anche economico, e di questo state parlando anche voi nei vostri SMS, perché il costo elevato dei libri è un tema che ritorna. Alcuni dicono i libri costano troppo, infatti lo dimostra il fatto che i lettori prediligano collane più economiche, c'è stata una ricerca anche in questo senso. Il tempo è invece uno dei fattori che potrebbe disincentivare la lettura quando si diventa più adulti. Questo è segnalato sempre al 349-238-6666 da quello che ci dite. Tra poco prenderemo in esame i vostri messaggi sulla lettura, perché in Italia tantissimi scrivono ma pochi leggono, soprattutto a partire dai 19 anni. Andiamo in caduta libera, prima siamo dei lettori anche affezionati, poi dai 19 anni preferiamo altre attività, e vogliamo capire la ragione di questa disaffezione. Ditecelo voi all'800 24 00 24. spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 9.33, partiamo da alcuni numeri. Risulta che il 60,4% della popolazione cinese legge medialmente un libro al mese. E il loro mercato editoriale è ancora molto contenuto rispetto alle scelte pro capite che abbiamo in Italia. Sono 568 infatti le case editrici distribuite sul territorio nazionale che sono ancora sotto il controllo dello Stato, immaginate un po'. In Italia invece è solo il 5% della popolazione a leggere almeno un libro al mese. E poi ci riempiamo naturalmente quotidiane discussioni su come avvicinare i ragazzi alla lettura. In realtà la domanda è mal posta, è come avvicinare gli adulti alla lettura, bisognerebbe chiedersi, visto che i ragazzi sembra, almeno fino ai 14 anni ancora di più, ma fino ai 19 anni, siano l'unico segmento di lettori che continua a rimanere forte. Non è così dappertutto, ci sono episodi e situazioni in Italia decisamente virtuose. Forse andando a guardare questi spazi luminosi si può capire in che direzione andare, come hanno fatto. Allora noi ci spostiamo in una regione dove si leggono più libri, la regione in cui si legge il maggior numero di libri, e noi andiamo, per la verità, in una biblioteca, in questo caso, dove c'è il dottor Romano Vecchietto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E voi siete un po' dei virtuosi, lei è direttore responsabile della Biblioteca Civica di Udine. Sì. Sì, sì, la Biblioteca Civica Vincenzo Ioppi di Udine, che conta tra l'altro anche 8 biblioteche di circoscrizione, quindi una realtà molto radicata, e che il prossimo anno compirà 150 anni. È una biblioteca quindi anche storica, e il nostro segreto forse è stato quello di coniugare da un lato l'innovazione, quindi la proposta di sempre nuovi titoli, è abbastanza al corrente con le novità librarie, editoriali, e dall'altro anche valorizzare il passato, le risorse bibliografiche, archivistiche che abbiamo in biblioteca, far conoscere alla città i tesori, i segreti della nostra biblioteca, perché attraverso questi segreti si fa conoscere anche meglio la storia della città. Ma forse voi siete riusciti anche a renderlo interessante, perché prima di farla continuare voglio ricordare i vostri risultati. A Udine sono usciti da questa biblioteca 180.000 libri l'anno scorso, cioè 2 per abitanti, contando anche neonati e anziani. 11.000 udinesi hanno chiesto almeno un libro, studenti, casalinghe, pensionati, insomma non c'è stata differenza. E chiaramente le biblioteche esistono anche altrove, ma ci deve essere qualcosa che avete fatto, e capisco, ma, anche sì, niente di eccezionale, niente di eclatante forse, però stiamo attenti molto alle piccole cose, per esempio agli orari. Insomma, la biblioteca è aperta anche il sabato pomeriggio. Ah, questo sì, sembra banale, eppure non accade in tantissimi posti, inclusa Milano. Non accade di trovare, quando si ha tempo, perché poi alla fine il tempo si concentra in fine settimana e serate, a volte la biblioteca aperta. I nostri lettori sono molto esigenti e ci vorrebbero aperti anche la domenica mattina, però insomma andiamo gradualmente avanti. Ci arriverete. E poi facciamo una serie di iniziative, di attività culturali molto rivolte anche ai ragazzi e anche agli adulti. Per esempio, ogni mercoledì sera apriamo la biblioteca per presentare un libro, si chiamano Dialoghi in Biblioteca. E quindi insomma la gente frequenta la biblioteca non soltanto per prendere a prestito un libro, ma anche per sfogliare un giornale, per aggiornarsi sulle novità librarie che escono in regione. Ovviamente siamo molto attenti alla storia locale, quindi anche alla storia friulana. Ma lei nota che c'è più interesse da parte dei giovani rispetto agli adulti alla lettura? Ma Non lo so, non sarei così netto in questa. Certo, per far arrivare i giovani, i ragazzi in biblioteca bisogna operare molto a contatto con le scuole, quindi l'educazione, diciamo tutti i sistemi sono buoni per far arrivare i ragazzi da soli in biblioteca, però ecco, bisogna anche architettare, programmare delle iniziative particolari. Abbiamo per esempio l'iniziativa Nati per Leggere, che è un progetto nazionale organizzato dall'Associazione Italiana Biblioteche e dai pediatri italiani, e poi c'è l'ambiente familiare, perché ci segnalano che a essere forti lettori di libri sono i ragazzi tra i 6 e i 14 anni che hanno i genitori lettori, e soprattutto probabilmente che accostano la lettura al piacere, perché se, come ci dicono alcuni ascoltatori, se viene solo dalla scuola e viene la lettura accostata un po' al dovere, all'obbligo, spesso invece di guadagnarli lettori, questo strumento li fa perdere. Attenzione, c'è una mamma, si chiama Ornella, si firma proprio Mamma Ornella, dice che si è sentita morire quando mio figlio, tornando dalla giornata passando in biblioteca alla scuola dell'infanzia, mi ha detto: sai mamma che in camera mia ci sono più libri che a scuola. Questa qui è una fotografia e della camera naturalmente, e della scuola, e della situazione, la mancanza di biblioteche nelle classi, che di cui parlavamo prima, proprio per segnalare uno degli strumenti che potrebbe incentivare. Io voglio coinvolgere anche una specialista, grandissima specialista in Italia di letteratura per ragazzi e non solo, Beatrice Masini, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, lei non vuole essere chiamata solo la traduttrice di Harry Potter, però lei, Beatrice, ha fatto anche questo. Vero, indubitabile. E ha pubblicato moltissimi libri per ragazzi, l'ultimo, lo cito, è La fine del cerchio, ed è presente anche un libro nel catalogo Burr con Roberto Piumini, si intitola Ciao tu. Poi ha fatto un romanzo per adulti, Tentativi di botanica degli affetti, edito da Bompiani. Questo è stato finalista al Premio Campello nel 2013. Noi vedremo se lei, Beatrice, riuscirà a incidere sugli adulti quanto ha inciso sui ragazzi. Così capiremo come mai noi adulti siamo disaffezionati alla lettura, perché è più facile coinvolgere un giovane. Lei che idea si è fatta di questa situazione? Io penso che appunto i dati ce lo dicono, ed è una gioia ascoltarli per una volta, anche perché non sono dati che parlano necessariamente strettamente di mercato, ma di lettura, no? Di lettura, una non di vendita. Differenza. Sì. Ecco, un conto sono i libri venduti, un conto sono i libri che poi vengono letti. Ma credo che alla fine sia anche questione di un lavoro capillare svolto negli ultimi 20-30 anni su tantissimi fronti, quello dell'editoria sicuramente. Un'editoria che sta attenta a quello che potrebbe piacere, cioè che non cerca soltanto di imporlo come un fenomeno che poi possibilmente diventi di massa, ma va proprio a cercare, no? a fare scouting, come si dice, a cercare il meglio in tutto quanto il mondo per portarlo poi in traduzione, ovviamente valorizzando anche gli autori italiani. Dall'altra parte il lavoro delle librerie indipendenti e di catena, ma direi soprattutto indipendenti, nel affezionare i lettori, ce ne sono molte specializzate ormai in Italia in bambini e ragazzi, e nel tenerli da quando sono piccoli a quando sono adolescenti e anche oltre. Poi naturalmente il lavoro appunto delle biblioteche, quando si coniuga con quello della scuola in un modo sano, che non è di proposta che viene accolta magari così in modo stiracchiato, ma è di collaborazione autentica, e quindi si lavora anche tanto sul territorio. Ma poi i ragazzi i libri se li cercano anche da soli, perché se guardiamo cosa leggono dagli 11 ai 18 anni, più venduti sono stati Hunger Game, le serie mediche come Colpa delle Stelle, uh-huh, che parla di adolescenti con il cancro, Braccialetti Rossi, poi ci sono libri romantici romanzi realisti dove le ragazzine hanno un'immedesimazione con queste famiglie che sono, hanno genitori separati, indifferenti, e quindi questo tipo di lettura non ti viene proposta a scuola, ti viene proposta dai tuoi coetanei, ti viene proposta da Facebook, dalle serie, cioè a scuola spesso non si va sul genere, su questo tipo di generi, ma sul classico. Probabilmente una fame alimenta l'altra, Beatrice. Lei che ha tradotto sicuramente il libro di maggior successo degli ultimi decenni per questo tipo di lettori, quali sono gli elementi che ne hanno decretato il successo, secondo lei? Di questo, come di altri, sicuramente è il fatto che incontrano un'esigenza nel momento in cui non si sa nemmeno esprimerla, no? Perché è facile poi a posteriori dire c'era bisogno di fantasy, era tanto tempo che non c'era il fantasy, eccolo qua, e allora ha funzionato bene. Poi ciclicamente il fantasy, come dire, diventa ipertrofico e quindi ci si sposta sul realistico e quindi ci si sposta su altri, diciamo, non sono poi generi, sono categorie. Però io credo che ogni fenomeno, se vogliamo parlare dei fenomeni, quelli che ha citato sono sicuramente tutti macro, c'è tantissimo di insondabile e c'è però questa capacità di andare incontro a quello, alle vibrazioni interiori in modi diversi. C'è l'escapismo, c'è sempre, funziona sempre benissimo, no? Lo diceva Tolkien e siamo ancora qui a dirlo, gli altri mondi, Hunger Games, non solo quello, insomma. Però c'è anche poi il bisogno di leggere, di interpretare la realtà, quella che viviamo tutti i giorni. Vibrazione interiore, è bellissimo, quindi si va incontro alla vibrazione interiore, la si intercetta, la si anticipa. Queste serie l'hanno saputo fare, si sono accaparrati degli eserciti di lettori giovanissimi. Lucrezia, buongiorno, pronto? Pronto? Poi, buongiorno. Buongiorno. Lucrezia, dica. Sì. Io mi chiamo da Roma, sì, e volevo agganciarmi proprio a un discorso che avete fatto poc'anzi. E lo faccio, si agganci. I libri sono veramente troppo cari. Io che sono adesso, io sono stata sempre una forte lettrice e adesso sono un dirigente pubblico e i libri me li potrei anche comprare rispetto a quando ero studentessa. E comunque dico che i libri sono cari, cioè un libro dovrebbe costare al massimo 10 euro. Volevo chiederle qual è una cifra equa secondo lei, quindi le collane a 9,90. Ma è troppo caro per un ragazzo. C'è qualcuno che dice che però il libro deve rimanere un oggetto di valore, altrimenti si perde in importanza. Guardi, c'è qualcuno che l'ha scritto, sì. No, contesto assolutamente questa cosa, assolutamente. Comunque, adesso, questa è una mia opinione. No, è gradita e naturalmente benvenuta, perché proprio le vostre opinioni ci interessano. Grazie a Lucrezia che ci ha chiamato da Roma all'800 24 00 24. C'è anche chi ribatte, no? Da Brescia, Lucia dice sì, certo, voi dite che per gli italiani i libri costano troppo cari, però l'iPhone ce l'hanno tutti, quindi ci sono anche priorità e scelte ben più costose che invece non vengono scoraggiate dal prezzo. Attenzione anche a questo tipo di critiche. Mary, buongiorno, pronto? Pronto? Mi senti? Sì, Mary, sento benissimo, dica. Buongiorno, io parlo da Bergamo. Sì. Sono una mamma, sono una nonna di 4 nipoti e volevo dirvi che io quando esco di casa ho sempre il libro nella borsa. E qualsiasi fila faccia al CUP, all'ospedale, agli uffici per qualche altra ragione, anziché stare lì seduta a guardarmi in giro, sbuffare perché... Nervosirsi, lei estrae il libro. Noi però, Mary, ci stiamo chiedendo, non tanto, e siamo contenti che lei abbia un libro nella borsa, ma perché invece alcuni il libro da una certa età in poi lo lasciano a casa? Cioè, perché si legge fino a che si è giovani? Secondo lei che non fa parte di questo, diciamo così, target che stiamo prendendo in esame oggi, ce l'ha appena dichiarato, chi non legge perché non lo fa? Ah, questo non lo so. Io nella mia casa... Quando ne parla con gli amici, quando le vedono fare queste cose, parenti sì, e amici... Sì, rimangono un po' così, non sconcertati, cioè curiosi, no? E niente, e qualche volta mi è anche capitato siccome i libri sono tanti e lo spazio è poco, no? Di avere il libro nella borsa, di averlo letto e di abbandonarlo su una sedia in qualche posto o sull'autobus o in un ufficio, pensando che qualcuno vedendolo se lo prenda, se lo porti a casa e inizi a leggerlo. Bellissima, bellissima questa abitudine che è stata fatta, è stata anche ampliata da alcuni circuiti, è molto interessante l'incontro casuale di un libro. 9:48, dobbiamo controllare la situazione del traffico e poi concludere con la nostra lettura. Questa è la tematica che abbiamo preso in esame oggi, soprattutto perché la si abbandona da una certa età in poi. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Ma il libro sul supporto elettronico vale? Certo che sì, e oggi non ci soffermiamo sulle differenze tecnologiche tra libro cartaceo e libro su Kobo, su Kindle o su altri supporti, anche se c'è chi dice che la lettura è un'esperienza sensoriale, c'è chi è innamorato proprio dell'odore della carta e chi è innamorato dell'odore dei libri. Tornando ai numeri, quasi una famiglia su 10 dichiara in Italia di non avere nemmeno un libro in casa. E il 63,5% delle famiglie al massimo ne ha 100. E non sempre perché poi si vada in biblioteca. La popolazione femminile, l'abbiamo sentito anche dalle nostre telefonate in qualche modo, ha una propensione alla lettura maggiore. Cioè, già a partire dai 6 anni, il 48% delle femmine, solo il 34,5% dei maschi, hanno letto almeno un libro nel corso degli anni. Daniela, buongiorno, pronto? Buongiorno. Dica, buongiorno. Dica, velocissima. Velocissima, io non voglio neanche discutere su tutte queste statistiche, dico solo una cosa. Se il libro si sa consigliare, si sa consigliare un autore, ecco che è più facile per una persona qualsiasi andarselo a comprare, sia che vada. Ma lei da chi li ascolta i consigli? Quando lei sceglie un libro, per esempio, Daniela, è perché l'ha sentito in una trasmissione radiofonica, è perché l'ha letto su un giornale, perché gliel'ha detto la migliore amica? Da chi li prende questi consigli lei? Personalmente ho un'età e diciamo, mi permetto di dire, una cultura che mi consente di sceglierli veramente anche con una ricerca su internet, secondo dei miei interessi del momento, che poi scelgo io se darmi a una lettura saggistica o una lettura di narrativa. L'estate la dedico alla narrativa, cerco, ognuno poi fa ecco fa. Certo, scandisce il tempo. Grazie Daniela, grazie perché ha detto una cosa molto importante. In questi giorni proprio si dibatte di questo. La lettura è qualcosa che si consuma in solitudine, deve essere un'esperienza tra sé e sé, o è importante la pubblicità, nel senso anche proprio del consiglio, come si parla di un libro in maniera appassionata, come si trasmette questo piacere proprio, perché se il libro lo si accosta sempre al dovere, alla cultura, qualcosa così un po' di polveroso, spesso si rischia di scoraggiare la gente invece che di invogliarla. La città in cui si legge di più, prima abbiamo parlato della regione, della biblioteca di Udine che fa delle cose straordinarie, ma la città in cui si legge di più, secondo le statistiche in Italia, è Milano, al secondo posto Trieste, al terzo Trento, poi ci sono Padova, Cagliari, Bologna e Firenze che è in calo di due posizioni. La top 10 poi è chiusa da Roma. Questa è un po' una mappa degli interessi letterari degli italiani. Io vorrei tornare a Romano Montroni, professore, perché ha sentito tanti stimoli, tante cose, sì, no? Moltissime cose, sì. La prima cosa è che come si fa a dire che i libri costano molto? Lo sapevo, l'avrebbe indignata, lo sapevo. Ma no, ma è fuori di ogni tipo di considerazione. Con 6 euro tu prendi un libro intascabile, cioè la ricchezza dei cataloghi è determinata dalle edizioni intascabili. Allora l'Università Economica Feltrinelli, i libri di Einaudi nei intascabili, gli Oscar Mondadori, ma ci sono i Garzanti, ma ci sono delle robe con 6-7 euro. Quindi non è una cosa per pochi, no, cioè tenendo presente no. anche la povertà crescente, gli no. stipendi a 1300 euro in Italia, no, questo no, secondo no, lei no. non rende inaccessibile un libro? No, assolutamente. Il problema vero è che chi dà l'abitudine a leggere sono, come in tutti i paesi a forti lettori, le scuole. Se la lettura non entra come lettura, non solo come studio, ma lettura ad alta voce, il piacere, non si va da nessuna parte. Quindi quando si dice che i libri costano molto, vuol dire non avere un'esatta conoscenza di cos'è il mercato, ed è un attenuante per non comprare dei libri o non porsi a leggere. È un attenuante, quindi, secondo lei. Poi anche questa storia che la tecnologia distrae, ma perché negli altri paesi dove leggono il doppio dell'Italia non c'è tecnologia? Anche 10 volte di più. Appunto, allora è proprio un metodo, un modo di essere, una cultura del paese. Io sono convinto che la politica in Italia abbia disatteso la lettura nel nostro paese da molti anni a questa parte. Noi abbiamo avuto dei ministri che dicevano che con la cultura non si mangia, quindi è ovvio che non possiamo andare da nessuna parte finché ragioniamo così. L'esempio parte anche da lì, lei dice. Grazie al professor Romano Montroni. Messaggi SMS prima di concludere al 349-238-6666. Ho visto con piacere il lavoro della Biblioteca Comunale di Cologno Monzese, che è aperta anche durante i weekend, e fate bene a segnalarcelo, bellissima sala per bambini. Non riusciremo a dare voce a tutti, ma continueremo poi a parlarne sulla nostra pagina Facebook di Spunti di Vista. Scrivete email a spuntidivista@radio24.it. Sono genitore in queste situazioni, tifo anch'io per la scuola, che deve essere la continuazione della famiglia. Sono un divoratore di Storia della Montagna, e quindi un libro di Messner può ispirare tantissimo i bambini. Concludiamo con cosa ispira Beatrice Masini. Il suo ultimo libro è La cena del cuore, 13 parole per Emily Dickinson, quindi aggiorniamo anche la sua biografia. E continuiamo con cosa ispira lei, che ha sempre lavorato a stretto contatto naturalmente con ragazzi e giovanissimi. E c'è chi dice imparare a raccontare le storie, audiolibri ci segnalano ancora i nostri ascoltatori. Bello, però in Italia sono poco praticati purtroppo. Quelli sì, sono piuttosto costosi, anche perché di solito sono giganteschi. Ma che cosa mi ispira? Mi ispira il fatto di vedere che le cose nel tempo si muovono. Prima parlavamo di questa fascia di lettori dai 14 ai 18-19 anni, che qualche anno fa era abbastanza trascurata, anche gli editori si erano passati un po' il testimone nel tentativo di continuare a farli leggere, non soltanto ovviamente i libri per adulti, da 14 anni puoi leggere quello che vuoi, ma anche la buona letteratura per ragazzi, che continua a esserci. E adesso mi pare che insomma ci siano tanti ottimi autori che vale la pena di scoprire: Meg Rosoff, Kevin Brooks, Patrick Ness, penso a David Levithan, insomma ce ne sono veramente tanti. La cosa bella, come si è detto anche poco fa, è che lì veramente funziona il parlare di libri, anche in piccole comunità. Ci sono dei blog, ci sono dei club di lettura, spesso alimentati dalle biblioteche, spesso alimentati dalle librerie per ragazzi, e quelli sono i luoghi in cui il passaparola funziona di più. Quindi probabilmente questi lettori giovani, diciamo adolescenti e giovani adulti, non sono tanti, però sono forti, fortissimi lettori, quindi leggono tanto. Leggono molto più del resto della popolazione, infatti. Se pensate che la quota di lettori è superiore al 50% della popolazione solo in Italia tra gli 11 e i 19 anni. Su questo rifletteremo anche stanotte. Per ora noi ci fermiamo, Irene Zerbini vi saluta, vi dà appuntamento a domani, ringrazio ancora una volta tutta la squadra di Spunti di Vista, agguerritissima, Barbara Bianchi, più agguerrita degli altri, Silvi Boccaletti, Massimiliano Lollis e Carmelo Lauricella in regia. A domani.